La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Li faccio chiudere le orecchie, non perché non le conoscano le parolacce, ma perché preferirai un mondo migliore. Migliore è rosa, fiori, profumo, vita, non cazzo, culo, merda, migliorati! Cari amici, si è dimesso Napolitano, ma cosa resta? Cosa resta del capo dello Stato a carico nostro? Cosa resta? Cioè, non è come negli altri paesi che uno va via e non se ne sa più nulla. Perché negli altri paesi succede questo: uno si dimette e non si sa più nulla, e soprattutto non resta a carico nostro. Questo vale ovviamente anche per gli altri che sono arrivati prima di Napolitano, eh? Un ufficio di 100 metri quadri a Palazzo Giustiniani, cioè al Senato. Uno stipendio da senatore a vita da 15.000 euro netti al mese. Auto con telefono autista estesa anche all'eventuale vedovo o al primogenito. Per carità. Scorta. Segretario personale scelto tra il personale del Quirinale. I servizi di una segreteria composta da un capo ufficio, tre funzionari, due addetti ai lavori esecutivi, due ai lavori ausiliari e un consigliere diplomatico militare. Un guardarobiere. Un addetto alla persona, che non si capisce che significa. Telefono. Linea telefonica urbana protetta. E altre piccole cose. Tutto giusto, Parenzo, no? Ma cambiate! Cambiate la legge! Cambiate. Che faccio, legislatore io? Faccio il politico? Ma si diceva lo stesso di Pertini, si diceva lo stesso all'epoca di Ciampi, si diceva lo Ti stesso. Ti ho fatto una domanda, giusto o no, secondo te? Ma no, ma certo che messa così non è giusto, mi pare evidente che non è giusto, che è troppo, ecco, che il segretario personale. Dopodiché ecco. È strano che tutta questa buriana. Ma non c'è nessuna buriana, non c'è nessuna buriana. I conti in tasca Napolitano. Ma non c'è nessuna buriana, è molto semplice. Napolitano, come altri, come succede sempre in Italia, no, resta tutti. Sì, certo, come succede spesso in Italia. Ho detto resta sostanzialmente a carico nostro. Allora, il Papa contro la satira. Sembra incredibile, anche se in realtà non troppo sorprendente, devo dire la verità. Il Papa contro la satira. È inutile che vi do un giudizio su quello che dice il Papa, lo potete immaginare quello che penso su questa cosa del Papa. Che è il Papa, per carità, ma per fortuna, si ha anche il diritto di criticare il Papa. Allora, cosa ha detto? Ha fatto un esempio assurdo, quello. Cioè, non c'è più il porgere l'altra guancia, c'è il cazzotto in realtà, il cazzotto che uno può dare. Sentite, parla con un monsignore che si chiama Gasparri, che è quello che organizza i viaggi e tutto, e c'è un Gasparri anche al Vaticano, ma non è parente. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Cioè dice il Papa che non bisogna deridere. Ha perfettamente ragione. Vabbè, infatti io me l'aspetto. Esattamente. Ma così. Infatti io assolutamente ero certo di questa cosa qui. Ero certo di questa cosa. Si chiama buon senso. Sì, sì, infatti, certo. Tu vai sotto la curva della Roma, tu sei della Lazio se non sbaglio, no? Ma che c'entra, tu scusa? Vai sotto. Tu vai al derby. Cioè se insulto, c'è cioè dentro... il Papa dice che se insultano mia madre, io sono legittimato a tirare un pugno. Tu dici di essere d'accordo. A parte che davanti a un insulto il Papa dovrebbe dire al massimo ti insulto, proprio al limite ti insulto pure io. È normale che può succedere che dice tu ispirata. Ma è un'istigazione alla violenza, una cosa del genere. Se insulto la mia madre tiro un pugno, ma è una roba di un'inciviltà spaventosa. Ma io ti do una testata. Vabbè, c'è una reazione. Ma se tu pensi che la reazione a un insulto debba essere una testata o un pugno, ma va benissimo, per carità. O anche tribunali, però non ci si può aspettare che uno non reagisca. Va bene, va benissimo, per carità. Sì, certo, uno insulta e l'altro tira un pugno. Stupendo, meraviglioso, un mondo così. Quello che vuole il Papa e che vuole Parenzo. Stupendo, meraviglioso. No, non ha detto questo. Come no? Se insulto mia madre ti tiro un pugno. E poi la solita cosa, non bisogna deridere la fede altrui, va bene, però, non bisogna deridere la fede altrui, benissimo. Io invece penso che la satira... Tu però potrà... devi avere più coraggio, cioè dovresti andare sotto la curva della Roma... Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma non c'entra nulla! Di merda! Ma perché? Ma se non lo voglio fare! Così lo saggi! Ma quella sarebbe una provocazione! Gergo il frocio... infatti è esattamente questo di cui stiamo parlando! No, quella è la satira! È la satira, è diverso! È la satira ed è molto diverso. Un insulto. Vai, ma sentiamo cosa ha detto il Papa. Che più interessa. Vabbè, ma tanto, tanto. Ti può piacere o non piacere? Sì, però sì, sì, certo. Ci rimane molto male. Vabbè, qualcuno ci rimane male perché si rimane male per tanti per tante cose. Puttana, tu ti arrabbi o no? Sono due cose molto diverse, lo sai benissimo. Ah, sono diverse. Sì, allora, molto diverse. Qualcuno. Sì, vediamo. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Allora, hanno liberato le due ragazze italiane, Greta e Vanessa, in Siria. Sì, no, pare adesso è sicuro. Ho visto poco fa, nessuno ha confermato. Ma tu sei in viaggio verso Siena, facci controllare a noi le robe che sappiamo. Esatto, hanno dato arrivato una notizia adesso ed è certo che sono state liberate. Allora, il punto meno è questo. Male, come no, ma no, io invece non sono affatto contento. Devo dirti la verità. Dovevano morire lì. No, Cruzzani, no, no. I due punti dovevano No. Io non ho detto questo. Ho detto se è stato pagato un riscatto, non sono per niente contento di questa roba qui, ma proprio per nulla. Abbiamo esattamente salvato due vite intanto. Beh, vabbè, se a te piace salvare le vite pagando i riscatti, va benissimo, continua così. Va benissimo, stupendo. Salvare le vite con ogni mezzo, benissimo, la tua politica è questa. Pagare i riscatti, in ogni caso, benissimo. Assolutamente. Stupendo, meraviglioso. Lo Stato di Israele, come stai? Ma se bombardano tutti, ma che liberano ostaggi? La vita umana prima di tutto. Quando hanno avuto due ragazzi rapiti da Hamas, prigionieri nelle celle di Gaza, la priorità dell'esercito israeliano e del governo israeliano era quella di sposti a tutto pur di riaverli. Va bene, perché le vite umane prima di tutto. Beh, benissimo, perfetto. Quindi, stupendo. Se volevi vedere morte, va bene. Io non ho detto questo. Il risultato è questo. No. Volevi vedere meglio morte che pagare il riscatto. No, non ho detto questo. Ho detto che a me non piace, a me non piace che vengano pagati i riscatti. Ho detto solo questo. E quindi la conseguenza è quella: dipende. Meglio morte che pagare il riscatto. Dipende, se uno paga sempre il riscatto, allora. Però sempre. Nel merito, l'unico modo che si senti, a me non piace che vengano pagati i riscatti, punto e basta. Il resto, le conseguenze non mi importa. E quindi tu dici no, meglio no, morte. No, non ho detto meglio morte, quello lo dici tu. E questo è il risultato. Va bene, la Moretti si è dimessa dal Parlamento europeo. La Moretti si è dimessa dal Parlamento europeo. Tre giorni fa. Benissimo, la Moretti si è dimessa dal Parlamento europeo. La cosa incredibile per candidarsi alla presidenza della Regione Veneto, la cosa incredibile è che dice di essersi dimessa senza paracadute, ed è la prima volta da 92, cosa palesemente falsa, anzi formalmente vera ma palesemente falsa nella realtà, perché al 100% diventerà consigliere regionale in Veneto. Dunque non è vero che non c'è paracadute. Ma la scelta di dimettermi da parlamentare europeo è anche una scelta di coraggio, è anche una scelta di onestà politica, perché dico mai, mai, nessun politico dalla Seconda Repubblica in avanti, e cioè dal 1992, si era mai dimesso da un posto sicuro senza paracadute, senza un'alternativa. No, il paracadute c'è, cara mia, è anche grosso, importante, il Consiglio regionale del Veneto, e probabilmente se uno fa il paragone degli stipendi, essere consiglieri regionali oggi è più vantaggioso dal punto di vista economico rispetto al parlamentare europeo. Ma abbiamo con noi Vittorio Feltri. Ciao. Buonasera, Vittorio. Buonasera, ciao, buonasera, ciao a tutti. Senti, posso fare subito un'obiezione? Ma tu sempre. Dimmi. No, volevo dire a Parenzo, sì, che in Italia c'è una legge che vieta ai parenti di un esatto, ostaggio, certo, nelle mani di un sequestratore di pagare il riscatto. Non si capisce perché lo stesso concetto non lo si debba applicare quando i rapitori, anziché essere dell'Aspromonte, sono, che so io, della Siria. Beh, mi pare, Parenzo, che questa cosa qua sia difficilmente attaccabile. Quella legge che è nata in un contesto in cui in Italia veniva fatto un rapimento un giorno sì e l'altro pure. Perché adesso è ancora in vigore, la legge. Nei casi internazionali io preferisco i servizi segreti italiani, che non sono in grado di se i sardi... Io ho detto che nel contesto in cui siamo... Ma che c'entra il contesto? Che non riescono... l'obiettivo è recuperare le vite umane. Sì, sì, ma il contesto non giustifica la violazione, cioè, di una Italia, legge che vale in Italia. Esatto, in Italia possiamo far ammazzare chiunque. Ma siccome all'estero le extraordinary rendition purtroppo le fanno soltanto gli americani e gli israeliani. Ma che sono le rendition? Ma non lo so, vuole fare il conto. No, sono quelle operazioni militari molto semplici che gli stati civili tipo Israele e America fanno, in cui vanno nei territori nemici, si prendono... La contestazione è molto semplice. Feltri dice: siccome in Italia c'è una legge che vieta di pagare il riscatto, non si capisce perché noi di nascosto, perché non l'ammettiamo mai, poi si viene a sapere dopo 20 anni in qualche libro. Ma non è dal punto di vista del diritto, dal punto di vista della logica, perché in Italia se ha ragione. Ma è questo il punto. E dunque noi paghiamo e alimentiamo il terrorismo, e soprattutto alimentiamo il fatto che uno poi rapisca diciamo che avendo come dire un sistema come quello che voi preferite vederle morte piuttosto che... Tu preferisci vederle morte, Vittorio? No, non piace a nessuno l'immagine di due ragazze ammazzate, sì. Questo è fuori discussione, però non mi piace neanche che due ragazze di 20 anni vadano in Siria con lo stesso spirito con cui andrebbero a Viserbella al mare e poi si rendono conto di aver commesso una stupidaggine, no? È chiaro, quindi cerchiamo di evitare di andare in bocca al leone, perché non è una cosa, diciamo, prudente e ne salutare. Perché poi paghiamo noi, tra l'altro, traffico. Poi paghiamo noi le spese. Questo non va bene. Prudenza, ragazzi. Sono tempi duri, Non tanto per noi, Che ne frega niente, Nulla, zero. Allora, c'è un'altra questione oggi che interessa in modo particolare Vittorio Feltri, che è fumatore, anzi sceglie i ristoranti in base al fatto che hanno o meno una sala fumatori, giusto Vittorio? Esatto. Cioè, se un ristorante non ha una sala fumatori, cosa abbastanza frequente, tu lo eviti. Sì, con cura, perché una cena al ristorante la sera è anche fonte di piacere. Se poi mi viene negato il finale, cioè una sigaretta o due o tre, poi sono affari miei, allora mi passa anche il desiderio di trattenermi al ristorante. Allora... lo trovo sbagliato, e in ogni caso sono a Milano, ce ne sono parecchi di locali dove si può fumare. Certo, la signora Lorenzini, che è anche ministro della salute, vuole dare un giro di vite dopo la legge che ormai vieta appunto il fumo nei locali pubblici alla questione del fumo. E allora, no al fumo nei parchi. Pessimo. benissimo. No, meno male che almeno su questo c'è un attimo di spirito libertario che torna fuori. No al fumo nei, mi sembra, nei parchi, nei cinema, nei film forse, ma su questo c'è come no, nel cinema è già sì, esatto. No, nel cinema, dentro i film. Esatto. La ministra. Dentro i film, cioè i registi dovrebbero fare attenzione a non mettere scene con gente che fuma, una cosa incredibile, come se uno volesse negare la realtà, diciamo, la realtà. No. E poi oltre ai parchi, credo che altri luoghi pubblici voglia vietare il fumo. Che dici? Anzi, in auto con i bambini, sì, nelle auto con i bambini, che è un'altra cosa pazzesca. Un genitore può avere io non lo farei, ovviamente, no, però non è che puoi punire uno, i vigili che già hanno tante cose da fare, no? Cioè, uno dovrebbe vedere uno stai fumando in autobus, in macchina, a casa malati, cioè, come a Roma. C'è un bambino, ma sono delle cose inapplicabili, sono delle cose folli e inapplicabili. Nei parchi cosa vuoi fare? Punire la gente che fuma nei parchi? No, al limite, no, Vittorio, punisci se uno butta una cicca per terra. Ecco, questo invece non avviene, perché io trovo cicche dappertutto, anche in centro a Milano. Tra l'altro le cicche di una volta si consumavano nel giro di 2 o 3 giorni, bastava una pioggerellina. Le cicche di oggi, tutte con il filtro, praticamente sono indistruttibili, quindi rimangono per mesi, anni addirittura. Allora qui bisognerebbe intervenire, perché si tratta di un inquinamento insopportabile, ma fumare in un parco sinceramente mi sembra una addirittura una cosa normale. Non capisco per quale, come sia venuto in mente al ministro di fare una proposta di questo tipo proibizionistico, che non ha alcun senso, non ha alcun fondamento. Io dico che naturalmente bisognerebbe che ciascuno di noi si limitasse, anche nel fumo, lo sappiamo che non fa bene, macchina con i bambini, credo che non fumi nessuno, al massimo fuma una sigaretta, ma tiene il finestrino abbassato i due dita, non è la fine del mondo. Ma sono tante le cose poi che fanno male, perché molti dicono bisogna smettere di fumare perché fa male, e poi i costi ricadono sul servizio sanitario pubblico, e allora quelli che bevono e si imbriacano praticamente ogni giorno, quelli va bene. E poi se noi estremizziamo il concetto, finirà che per legge ci obbligheranno anche la maglietta della salute, perché se tu non la metti ti ammali e le bronchiti costano e il servizio pubblico deve portare. Siamo a follia. Io riaprirei i manicomi, perché mi pare che ci sia proprio l'esigenza di curare chi ha delle idee talmente stravaganti. Senti, ma in realtà tu sei anche contro il divieto nei locali pubblici. Se fosse per te, uno potrebbe fumare sempre, continuamente. Ma abbiamo fumato per generazioni e generazioni nei locali pubblici. Poi a un certo punto il professor Sirchia, che tutti ricorderanno, ha avuto questa bella trovata. Tra l'altro c'era... Dicono che sia una delle cose buone che ha fatto il governo Berlusconi. Immagino che non la pensi così. No, io non la penso così. Pensa che hanno anche abolito il vagone. C'era un vagone, una carrozza. Nei treni, come no? Certo. Nel quale uno poteva andare lì e suicidarsi col fumo di sigarette. Saranno anche affari suoi. No, hanno tolto anche quel vagone. Cioè si preoccupano delle cose personali e poi non si occupano dei servizi pubblici, che infatti non funzionano. Tu, Parenzo, vorresti di nuovo la carrozza nei treni per fumare? No, questo no, non ci andavo. No, perché sei troppo fumavo. Politicamente corretto per dire una cosa del genere. No, perché non ci andavo, non lo utilizzavo, perché mi si impuzzolivano i vestiti e io odio puzzare del puzzo degli altri, e quindi non ci andavo. Ma se uno lo vuole fare? Ci deve andare, ci deve poter andare, certo, perché no? Certo. Poi il fumo è profumo, non è puzza. Ah, il fumo è profumo. È puzza, no, ma io odio... L'ultima volta che sono andato in aereo, 20 anni fa, avevo seduta accanto a me una signora che doveva aver mangiato una cesta di aglio e mi ha praticamente stordito per tutto il viaggio. È meglio il fumo dell'aglio. Non c'è dubbio. Allora proibiamo l'aglio. Senti, ma tutti a blandire Napolitano in queste ore, hai visto? Sì, tutti quanti a dire delle cose fantastiche, favolose. Non solo, ma questa mattina ho letto un articolo, mi pare di Polito, su Corriere della Sera, in cui bacchetta quelli che hanno osato, nella circostanza delle dimissioni del capo dello Stato, non dico sfotterlo, ma ricordare certe cose che non andavano bene, criticarlo sia pure in forma civile. Insomma, adesso non si può più neanche nel campo politico dire la propria opinione, che non deve per forza di cose coincidere con la vulgata, diciamo, progressista. Ma secondo te il costo che ci portiamo dietro di Napolitano è un costo assurdo? Parenzo dice che è normale, che vale. No, lo abbiamo pagato per tutti, per Ciampi, per sì, ma esiste solo da noi che uno smette una che uno finisce questo una carica e praticamente vero, viene pagato uguale come senatore a vita, e in più c'ha una serie di benefit che nessuno si sognerebbe quando finisce di fare un lavoro. Ma ragazzi, no, mi sembra che, cioè, la cosa sia di fronte. Sono privilegi eccessivi, questo lo capisce chiunque, dobbiamo ammetterlo, ma anche la stessa sede dello stesso Quirinale è un edificio talmente imponente, talmente importante, che è sproporzionato alle funzioni. Ma sì, chiuderlo. Costa, mi pare, adesso non ricordo esattamente le cifre, deve avere 800 dipendenti, un costo complessivo mostruoso, e in fondo basterebbe una bella sede, ma non di quelle dimensioni, insomma una cosa anche più in sintonia con la nostra economia. Invece niente, lì tutto rimane inalterato. Senti, e questo infastidisce sul piano simbolico, io credo, anche gli italiani si incavolano. Senti, ma questa cosa del Papa, no? Se uno tira una parolaccia a mia madre gli aspetto un pugno, cioè, ma non la trovi veramente ridicola? Cioè, ma come fa il Papa? No, ha sbagliato, oltretutto ha usato un'espressione che è di una violenza mostruosa, perché diciamo, se uno insulta te, tua madre, i tuoi bambini, non è che tu rispondi con un cazzotto, questo forse lo si fa in Argentina, ma no, da noi si cerca di evitare, almeno in certi ambienti. Direttore, amico mio, tu che sei l'alfiere del politicamente corretto, il Papa dice una cosa straordinaria, che ha detto? Una volta per fortuna, no, perché è esattamente il contrario, cioè io mi aspettavo Feltri, l'amico Vittorio, che difendesse il grande Papa, che con la sua papalina, la tonaca bianca, dice: se offendono la mia mamma gli tiro un pugno. Meraviglioso, ma non te l'aspetti. Ma come meraviglioso? Ma meraviglioso questo, in genere Papa, questo lo dirai tu, ma questo lo dirai tu. Ma scusa, spiegami un attimo perché dovrebbe essere originale, dimmi un attimo perché dovrebbe essere originale dire che dare un pugno a qualcuno quando no, ti insultano. Ma è vero, allora guarda, ma non è vero, ma è vero cosa, scusa? Se uno mi dice che sono un figlio di puttana per strada, ma io gli tiro una testata. Alle elementari, certo. Ma alle elementari, dice la verità. No, ma alle elementari quando sei un ragazzino. Alle elementari sei un ragazzino e hai delle erezioni. Se uno dice mi hai tomato una testa di cazzo, e io gli do. Ma io gli sputo in faccia. Vabbè, ma tu sei un animale, ma che vuol dire? Cioè, nemmeno io che sono considerato da te un animale. Ma che vuol dire non ti fai insultare gratis? Io chiamo alla limite la forza pubblica se insisto. E insiste. A reazione. Ciao direttore, a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro. Secondo il Fatto Quotidiano, secondo alcune fonti sarebbe stato pagato un riscatto di 12 milioni di dollari. Adesso Parenzo mi dirà e altre persone mi diranno: beh, per la vita umana non c'è prezzo, no? Si può pagare anche un riscatto altissimo. Ma perché non è meglio la California? Non è meglio la Florida? Vabbè, ma queste sono valutazioni tue. Non è meglio la California, invece poi di procurare un disturbo, una rottura di balle pazzesca, pagare il riscatto, 12 milioni di dollari, lasciamo perdere, adesso non voglio fare la polemica sui 12 milioni di dollari, però 12 milioni, sarebbe stato pagato un riscatto da 12 milioni di dollari, perché io non voglio la morte di nessuno, però a questa cosa bisogna porre una conclusione, a questa vicenda qui, che un italiano viene preso di mira perché sanno che paghiamo un riscatto, perché la realtà è questa e lo dicono tutti, non lo dico solo io che non sono esperto di queste cose, ma lo dicono quelli i più esperti di queste cose, rapiscono gli italiani perché sanno che paghiamo un riscatto, questo è il punto. Poi uno se ne può pure fottere e dire: benissimo, noi facciamo i cooperanti per la per l'adrenalina di chi vuole queste cose, no? Perché invece di fare il cooperante in Calabria o non so dove, o in un'altra parte d'Italia, o in uno, o a pulire il culo ai vecchi, o a pulire il culo ai vecchi in un ospizio a Milano, magari insieme a Berlusconi, decidono di andare in Siria perché fa più figo la Siria, la Turchia, e noi paghiamo 12 milioni di dollari. Lo so, sono tremendo, sono orribile, sono disgustoso, disgustoso. Beh, sì, a dire queste cose, disgustoso, però penso, la penso così, e io sono sicuro che così la pensano moltissimi italiani. Beh, che c'entra, anche durante il fascismo moltissimi italiani pensavano fosse, ecco, buono, la cazzata, oppure non lo era, ecco la cazzata, ecco la cazzata, lo dite con grande civiltà, no, anche dite? Durante il fascismo, ma io te lo lascio molti dire, pensavo, cioè il fatto che ci sia la maggioranza, no, io non ho detto la maggioranza, a me non me ne frega niente della maggioranza, io ho detto la ci sono non è detto che la cosa, no, che sia buona, però mi dà conforto il fatto che ci sono un certo numero, non me ne frega niente, non faccio, che lottano col califfo pensano di essere del giusto, ma che c'è, però lottano, uso il gusto del paradosso proprio, però per dirvi che è un po' una cazzata. Senti, vogliamo risentire per la tua gioia o per la gioia di qualcuno, le parole ieri di Cacciari qui alla Zanzara, in cui alla Sant'Anche Sega, la Sant'Anche nei giorni scorsi ha detto che noi siamo superiori rispetto alla civiltà islamica, no? Sì, però poi torniamo sul Papa, perché non ha detto una cosa scontata, questo Papa, cioè ha usato, no, un che linguaggio. Non abbia detto una cosa scontata, non c'è dubbio che abbia detto una boiata altrettanto. Bene, però la cosa bella, ma magari ci torniamo, perché in genere uno è abituato ai discorsi del Papa, uno in genere neanche li ascolta. Sì, ma una cosa del genere la possiamo dire io e te, la possiamo dire io e te. La grandezza, ma se il Papa incita alla violenza, non è bello, non è bello. Non ha incitato alla violenza. Ma come no? È un Papa realista che vive in questo mondo, ha visto le favelas, nelle favelas si muore per molto meno, altro che uno sgarro alla madre. Vabbè, nelle favelas, se insulto la mia madre io tiro un pugno, ditemi voi, popolo della Zanzara, se il Papa ha ragione oppure no. Tu dovresti elogiarlo, perché invece è Io sono contro la violenza. Forse tu non mi hai capito, sono contro la violenza. Ma non me ne frega niente del mainstream o no. Ma io sono contro la violenza fisica, contro. Ma che c'entra quello? Un altro discorso. Con le parole si può colpire, si può uccidere con le parole. Mi fai sentire Cacciari un attimo? Cacciari contro la Sant'Anche, se la dimostrazione vivente che noi non siamo una società superiore all'Islam. Quando qualcuno dice, come è stato detto qui in questa trasmissione, in altre trasmissioni, la Sant'Anche, altre cose, che noi siamo una civiltà superiore rispetto a quella islamica. Ma poverina, cosa dice? La Sant'Anche è la dimostrazione che non siamo una civiltà superiore, non mi pare, no? Ma perché lei dice? Perché dice è una stupidaggine colossale questa roba qua? Ma è una stupidaggine colossale, siamo una civiltà completamente diversa. Secondo me poi Cacciari ha detto delle cose pazzesche, ha detto anche che da dove è nato Hitler, cioè Hitler è nato in questa civiltà, nell'Occidente e non nell'Islam. Ma io non ho detto che noi non abbiamo prodotto mostri, che vuol dire? È chiaro che anche noi produciamo mostri, ma stiamo parlando dei mostri che ci sono adesso. Poi ha parlato delle donne dicendo che le donne sono più danneggiate, esistono più femminicidi, più violenze nei confronti delle donne da noi piuttosto che nell'Islam. Secondo me non è nemmeno vero questa roba qua, comunque. And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo sono state liberate, la conferma da Palazzo Chigi, le giovani cooperanti sequestrate il 31 luglio saranno presto in Italia. Papa Francesco è arrivato nelle Filippine, è aberrante uccidere in nome di Dio, ma non si deve offendere la religione, se insultano mia madre io tiro un pugno. Grande folla a Parigi ai funerali delle vittime dei terroristi, il disagio dell'Islam moderato e nuovi proclami contro l'Europa dei seguaci del califfo. In Nigeria gli islamisti di Boko Haram devastano la città di Baga, una strage secondo Amnesty International che denuncia uccisa anche una partoriente. Napolitano al lavoro nel suo studio di Palazzo Giustiniani, vedremo cosa si vota e se sarò nelle condizioni di partecipare, chi verrà dopo di me non lo so nemmeno io. Il PD a Forza Italia, nessuno scambio tra riforme ed elezione del nuovo capo di Stato, Renzi non accetto veti, Berlusconi incontra Fitto per provare a ricucire. La Svizzera sorpresa, sgancia il franco dall'euro, crolla la borsa di Zurigo. Katainen, vicepresidente della Commissione Europea, promuove il Jobs Act. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Vincenzo da Genova, vai. Ciao. Dimmi Vincenzo, dimmi. Ascolta, volevo dire a Parenzo, sì, se vuole mettermi in galera, perché io penso che Israele sia, sì, pari pari a Hitler, uguale. Hanno fatto in 40 anni delle cose immonde, indegne, sì, però non si può dire, perché se si dice si è antisemiti. Io non sono anti niente, però se ci facessero vedere, sì, alla televisione generalista quello che succede con i bambini bruciati dentro le case, bruciati, bruciati dentro le case quando buttano, sì, le bombe. Io non sono pro attentati, pro niente. No, niente. Vincenzo, però, dunque, io non ho capito, lei sostiene che gli ebrei sono pari, uguali ai nazisti. Bene da Adolf. Hanno imparato bene da Adolf. Lei dice, esatto, una boiata, una battuta, sì, di idiozia inenarrabile, sì, ma va bene, certo, va bene, certo. Io però mi batterò fino alla morte perché lei la possa dire. Parenzo, probabilmente c'è un limite. No, perché ti manderebbe in galera, caro Vincenzo, cioè, Parenzo, non lo so. In galera no, se lo vedessi per strada magari che cosa? Sulle scarpe, magari li sputeresti sulle scarpe. Sì, magari avrei una reazione arrabbiata, eccessiva, magari mi incavolerei. No, gli daresti un pugno in faccia, che gli faresti? Perché non dici che i confini di Israele, quando li hanno tracciati, erano ben diversi da quelli di oggi? Vabbè, ma non entriamo adesso nel dettaglio. Il problema non è il dettaglio, Vincenzo. Lo considero una persona, lo considererei come lo considero una persona spregevole che dice delle stupidaggini. Dopodiché c'è sempre un confine tra in questi giorni stai montando una campagna, a mio avviso idiota, in cui provi a sostenere che qualunque cosa si può dire, va bene, non c'è sanzione. Ma non ho detto io questo. Invece, sempre da giorni, io non ho detto questo, che la libertà non è priva di sanzioni, cioè l'insulto nel nostro sistema viene punito. Secondo, sì, la legge, normalmente l'insulto, poi l'ingiuria, certo, ci sono diversi livelli. Allora io sostengo semplicemente questo, non che vanno a portare tutte le persone in tribunale, ma ritengo che quando uno si sente offeso... Vabbè, ma quello si può sempre fare, che c'entra? Ma hai detto una banalità totale, una totale banalità. Si può dire qualunque cosa. Ma io non ho detto questo, ho detto che c'è una contraddizione evidente, come dice anche Mentana, come dicono altre persone, ma non solo Mentana, come dice la gente comune. Posso dissentire, no, ma non lascia perdere l'anima. Vincenzo, io non ho capito una cosa, Vincenzo, per intenderci, Diodonè deve andare in galera, va bene, ma tu sai perché quando ti toccano lo Stato di Israele o gli ebrei sei più sensibile, no, dai, tu, dai, diciamo la verità, è legittimo ma sei più sensibile, dai, su, il tuo motivo di polemica è capzioso, perché non è capzioso, è reale, Vincenzo, che cosa vuol dire? Aspetta, fammi sentire Vincenzo, io lo faccio anche con le vignette, vabbè, fammi sentire Vincenzo, fammi sentire. Io ad esempio Vincenzo o no? Dai. No, perché mi hai messo in bocca una cosa che non penso. Va bene, Vincenzo, dimmi. Dai. Sono libero o no di pensare questa cosa come lui pensa? Infatti la pensa e la dice. Mi pare che succeda niente. Io sono libero di dirle che ha detto una grande corbelleria. Come non succede niente? Chiunque apra bocca e parli di Israele, cioè, è anche. Dipende cosa dice. Nazionalsocialisti, ma lei sa che in Germania, oddio, però non è che ci devi fare ogni volta, ogni sera sta lezione, però un attimo solo, dai, forza, accettiamo tutto, ma non è vero, accettiamo tutto, non è così, maledetti gli ebrei, bruciamoli, ma chi l'ha detto, ma che sei matto, sei, cioè sei impazzito, tu sei con ragioni così, maledetti gli ebrei, bruciamoli, io ragiono così, succede? tu non ce li si può dire, no? Ma chi ha detto che bisogna bruciare gli ebrei? Bruciamoli. Ha libertà di opinione. No, ma, dire, no? Io difendo. Dipende il contesto, questo. Ovviamente. Se uno fa propaganda, se uno fa propaganda e si mette a capo di un partito che vuole, appunto, che nel programma vuole bruciare, appunto, ma questo vale per tutti, appunto, non solo con gli ebrei, appunto, vale anche appunto per i rom, vale anche per tutti. Quindi la libertà. Ma quello non vuol dire nulla. Anche è un'altra cosa. In Germania, ad esempio, incitare al nazionalsocialismo è considerato un reato. Ma incitare. È un paese illiberale per questo, no, vabbè, è un paese che ha fatto i conti con la storia. La borsa. Ma Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vacca. Fai così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast. Ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Allora ragazzi, fino a qualche ora fa eravamo tutti Charlie, no? Poi che cosa è successo? È successo che la Francia, per una frase scritta su Facebook in cui faceva ironia su Je suis Charlie Koulibaly, ha arrestato e poi successivamente ha rilasciato il comico antisemita Dieudonné. E poi seconda cosa, il Papa, io quando parlo però, almeno un concetto, me lo devi far finire, perché altrimenti interrompi la poesia, come si dice, no? Allora, solo che ha 80, ma non me ne frega niente, lo sappiamo, andatevi a vedere Wikipedia, vedete tutto lo score e tutta la vita di Dieudonné. Seconda cosa, il Papa dice che non si deridono le religioni. Ma scusate, ma se la satira non deride le religioni, anche nelle loro come dire, follie, nei loro eccessi, ma cosa cazzo deve fare la satira? E poi non ho capito perché non bisogna deridere le religioni. Allora, se uno deride la mamma, come dice il Papa, se uno deride, che ne so, i vegani, se uno deride, e perché le religioni devono essere protette e i vegani no? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Ma leggo da questo schermo che ci ha richiamato il nostro amico da Ferrara, Giovanni. Quanto tempo, Giovanni? Non è che ho tempo da perdere per sentire voi. Ogni tanto questo pure è vero. Cose inutili, ma però adesso, siccome ho sentito un paio di cose divertenti. Sì, sì. Cioè, ma cosa? Voglio dire questo, allora. Hanno rotto il cazzo. Questi che vanno a fare gli aiuti umanitari, sì, si fanno rapire, sì, e noi ci tocca pagare. Loro sanno cosa rischiano. Se vengono rapiti, lo Stato italiano non deve intervenire, sono cazzi loro. Interverrà l'associazione umanitaria che li ha mandati. Lo sanno benissimo. Mi pare ineccepibile, Parenzo. Non solo, no? Loro, ti dico un'altra. Sai quelli che vanno a fare le escursioni in montagna? Ma gli dici di stare zitto un attimo a questo Parenzo? Sì, sì. Quando uno parla, è maleducato, interrompe, è maleducatissimo questo Parenzo. È un convegno. Quando uno parla, esprime un concetto, non puoi interromperlo. Giovanni, come se tu fai la pubblica... è abituato ai convegni, capito? Va bene, andiamo avanti. Ascolta questo. Ascolta questa. Quelli che vanno in montagna a fare le escursioni. Sì. Gli alpinisti, sì, e ogni anno si perdono e perdiamo milioni di euro per andarli a recuperare. Vai, ma lo sapranno ben prima. Lo è pazzo. Vabbè, ma non adesso, ci devono adesso andare, ma non rompono i coglioni e andare a perdersi sulle montagne. Ci vogliamo spendere milioni, fanno le escursioni, sanno come si può andare. Però qua è un po' diversa la cosa. Cioè, il soccorso alpino non dovrebbe intervenire. È un po' diverso. Se no, vanno... perché il soccorso alpino lo paghiamo noi. Questi non devono andare dove non si può andare. Se uno va soccorso alpino. Se uno va dove non si ma può andare, cazzo, sono cazzi suoi. Vabbè, non è che se uno va dove non si deve andare, poi non deve essere salvato. Ma dai, sono su. Cazzi suoi, lo lasci lì. Ma anche perché in questo caso i costi sono minimi. Vabbè, poi la seconda cosa, no, qual era? Sono tanti, non ne sono mica fuori. No, poi questa rovina del Papa è divertente, però. Sì, perché? Perché sarebbe porgi l'altra guancia. Sì. Cioè il Papa non porge l'altra guancia, mentre la cosa fondamentale della religione cattolica è porgi l'altra guancia. Beh, certo. La novità assoluta fu quella. Quindi sta rivoluzionando la novità assoluta che nel 2000 anni fa fu porgi l'altra guancia, che non esisteva. Quindi sta rivoluzionando, un rivoluzionario assoluto questo qua. E voglio ricordare un'altra cosa a proposito delle vignette e, sì, del prese in giro delle religioni. Perché non si può mostrare il sedere di Maometto? Quando Michelangelo ha mostrato il sedere di Dio? Cioè? Nella Cappella Sistina. Ma non è Iron, ma no, nella Cappella Sistina, a un certo punto, noi vediamo Dio... rivolto verso il pubblico, a un certo punto si gira e vediamo il sedere di Dio. E allora? Qualcuno ha ucciso Michelangelo? Scusami, c'è stata una rivoluzione? Cosa cambia? Cosa cambia? Perché di sedere di Dio cattolico si può vedere e sedere di Maometto non si può vedere? Cosa cambia? No, ma lei fa uso di sostanze. Io voglio sapere chi è il suo fornitore, perché voglio avere lo stesso fornitore di sostanze. Cioè, ma voglio dire, ma Michelangelo con quegli affreschi non faceva satira o ironia? Vabbè, Giovanni, questo è tutto da discutere, eh? Questo è tutto da discutere. Fate. Ciao, a presto. Comunque, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Dario, Bari, Dario da Bari. Sì, pronto. Vai, vai. Ciao, volevo solo chiedere una cosa a Parenzo. Sì. Se il Papa è autorizzato a dare un pugno... Alza la voce però, Dario, se no non sentiamo. Dai, alza la voce. Se il Papa è autorizzato a dare un pugno a chi insulta sua madre. Sì. Se violentano una figlia è giusto picchiare a morte? Beh, no, effettivamente, no, ma effettivamente. Mi sembra che non capiate il senso della battuta del Papa. Non è una battuta, guarda. Non è affatto una, ma non è affatto una battuta. Di quello ma che non è affatto di... una battuta, ti assicuro. Non è affatto una battuta. Non faceva stava una. Stava spiegando il contesto di una situazione. Stava spiegando. Ecco, l'interprete perché... del Papa. Il Papa no, sulla mamma. Ma è talmente evidente. Sì, sì, che certo. Che ci sono. Senti, senti. Prova a sentire. Sentiamo. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. Non si può reagire violentemente, però se mi toccano la mamma, se mi toccano la mamma, sono autorizzato a sferrare un pugno, questa è la sostanza. Se mi toccano la mamma, cioè la mamma, la religione come la mamma, diciamo, la religione come la mamma. Sono delle cose cosiddette sacre, no? Cioè può essere che ti parta un cefone in un momento di rabbia, sì, può sì. essere che ti parta un cefone e se ti parte un cefone non succede niente, un cefone. Sì, Lino, provincia di Ascoli. Io sto col Papa, insomma. Sì, vabbè, che tu stia col Papa, è scontato. Lino, provincia di Ascoli. Beh, no, scontato. Insomma. Buonasera, buonasera. Dimmi. Buonasera, Cruciani. No, io volevo fare semplicemente una domanda. Cioè, ma voi Parenzo lo pagate? Beh, sì. Beh, sì, certo. No, ma lo pagate per dire delle banalità? Cioè, veramente, cioè, tutta la serata che sento dire delle oscenità e delle banalità. Allora, secondo me... Scusami, Lino, però tu devi... No, devi, o sono oscenità o sono banalità, perché sono due cose diverse. Le oscenità comunque devi cosa. Collegarti meglio, perché ti sentiamo molto disturbato. Togliere il viva voce dalla macchina. Esatto, Lino. Capito? Lei dottor Parenzo, sì, ha tolto il viva voce. No, non l'hai tolto il viva voce, comunque. Non dimmi. L'ha tolto, perche conosco la tecnica. Tolga il viva perché lo uso anch'io ogni... Comunque, dottor Parenzo, io non è che mi devo... Si fermi con la macchina, si fermi con la mi dia retta, si fermi con la macchina, oppure tolga le mani dal volante e tenga il telefonino con due mani, metta l'acceleratore, la quarta, e però tolga il viva voce. Niente, non lo vuole togliere. Lino, lo vuoi togliere il suo viva voce o no? Mi ecco. Sente adesso? Sì, vai, non lo so, stavi col viva voce. Sì, vabbè, stavo in macchina, naturalmente va in automatico il Bluetooth. Comunque, ma non è che va in automatico, se lei parla con la radio, il Bluetooth non lo può utilizzare, se no non si sente una mazza, per cui è inutile che sta lì ad aspettare al telefono per poi non far sentire il suo intervento. Va bene, ha ragione, adesso non ci dilunghiamo su questo, io volevo semplicemente dire una cosa, cioè se una radio paga una persona e poi lui si definisce giornalista, io non so come faccia a definirsi giornalista, sinceramente, no, io ho sentito dire delle banalità, cioè effettivamente io mi pongo la domanda, ma lui fa la scena o è veramente cretino? Ma per esempio stasera che banalità ha detto? No, banalità, ma ne ha dette tantissime, scusa, l'ha detta a lei. Me ne dica una. Me ne dica una, Lino. Per esempio, quando lei parlava del Papa, lui rispondeva con delle banalità, diceva sì, questo lo sappiamo, è un'altra cosa. No, cioè, delle banalità. Novità, quello che dice il Papa, invece. Fermi, sul riscatto, fermo, aspetto. Lasciamo perdere il Papa. Sul riscatto, Matteo Salvini ha appena scritto, se veramente per liberare le due amiche dei siriani, il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno schifo. Allora andiamo a Bergamo, Paolo. Pronto? Dimmi. Pronto? Allora, io volevo intervenire sul discorso dell'intervento del Papa, che secondo me era un'idea che mi era venuta anche qualche giorno dopo, premesso che chiamare deficienti e delinquenti quelli che hanno fatto certe cose non è offenderli ma è fare un complimento, però è chiaro che bisogna subire a volte anche delle conseguenze, quindi, e riguardo al pugno, non è un pugno vero, cioè è un ah, è un pugno metaforico. È un pugno metaforico, secondo me, quello del Papa. Paolo, senti, no, non mi sembrava che fosse metaforico. Il Papa ha detto: se insulto la mia madre, sono autorizzato a tirare un pugno alla persona che insulta mia madre. Questo. E non si deridono le religioni. Sono due cose per me profondamente sbagliate. Il Papa ha preso una toppa mostruosa con queste due cose. Però questa è la mia opinione. Parenzo la pensa diversamente. Pensa che uno debba avere dei limiti perché si tratta della religione. Figuriamoci, allora va bene anche per i vegani, non so, per qualcun altro. Perché dobbiamo pigliare per il culo i vegani? O deridere chi non mangia la carne, o deridere la satira sulla religione, se ne vado, dipende anche qui come si fa, però la satira sì, sulla adesso religione lascia, ma questo è abbastanza scontato che come si fa, stiamo parlando, il Papa ha detto non bisogna deridere la religione, la satira deride la religione, è uno dei principali, ma tu lo sai il male tempo fa, il male, ma come no, lo conosci male, una vecchia rivista, sai, una volta raffigurò il Papa con la faccia di una scimmia. No, ma fece anche tu lo sai cosa c'era scritto sotto? Sai cosa c'era scritto sotto? Sì. No, nel merito non mi ricordo questa della scimmia, però ne conosco anche altre. Sai cosa c'era scritto? C'era una bestemmia sotto, naturalmente non la posso ripetere questa bestemmia, se no mi mangiano vivo, ma era animale. No, bestia, capito? Era questo. Lui bestia. Questo era il punto. Il male. È normale che avvenga questo. Si giocava molto sul fatto che raffiguravano il Papa come una scimmia. E dunque erano in qualche modo legittimati, ma era sostanzialmente una bestemmia. Io non so cosa successe in quel caso al male. Ma è normale deridere la religione. La religione, che secondo me, appunto, è una delle più grandi. Ma questo non apriamo questo capitolo. Ma può essere tranquillamente sbeffeggiata. Ma tranquillamente non bisogna deridere la religione. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Radio Padania su Napolitano. Partiamo dal nostro amico Pellegrin, napolitano come i nazisti. Dare la benedizione, per così dire, ai carri armati che spara, sovietici che sparano sugli operai, per me è qualcosa che non. È come i campi di concentramento del nazismo. Cioè, chi si è macchiato, lordato, chi ha rovistato, grufolato in mezzo al sangue degli operai ungheresi, assecondando nei loro carnefici, secondo me dovrebbe essere assolutamente messo al bando dal consesso civile. Come hanno fatto con i nazisti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ascoltatori scatenati, uno che brinda a prosecco per le dimissioni di Napolitano. Guarda avanti. Io sto andando a casa adesso a festeggiare, a brindare con dell'ottimo prosecco per le dimissioni di questo signore, che non ci ha mai rappresentati nel modo più assoluto, e in questi 9 anni a me la cosa che ha fatto più disgusto sono state le registrazioni cancellate, bruciate, della trattativa Stato-mafia, dove questo signore era coinvolto in propria persona. La tempesta, come una madre e il figlio. Un altro napolitano Giuda traditore. Caccia oltre il fiume. Il potere. Ma Napolitano non era quello che applaudiva i carri armati sovietici e balleva le soldi nella tua schiena. È un buon traditore, perché l'Italia è fatta di due persone: i traditori verso il popolo italiano e di Giuda, il Caino. Bene, questi già a sinistra li rappresenta tutti e due. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ripeto quello che ha scritto Salvini, Parenzo, sulla questione della liberazione delle due ragazze, no? Delle due cooperanti, chiamiamole così. Se veramente per liberare le due amiche dei siriani, dunque lui, Salvini, dà per scontato che siano amiche dei siriani, il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno schifo. Questa è la Sai come gli ha risposto il mio amico Massimo Zampini, grande tifoso della Juventus, avvocato eccetera? Calcola che noi per il riscatto di Giovinco ne spendemmo 11. Stupendo. Riscatto Giovinco, il calcio, Servi di Roma fuori. Marco Firenze, intanto mi segnalano che c'è una figuraccia mondiale da parte di una deputata dei 5 Stelle che durante la discussione com'è che si chiama questa deputata? Didone? Didone. Durante una discussione in aula chiede l'attenzione della Boschi e dice: non è possibile, eccetera, eccetera. Didone, non si chiama Didone, scrivetemi come si chiama. E la Boschi a un certo punto dice: scusate, ma io sono qui al telefono perché mi hanno comunicato la liberazione delle due ragazze. Sentite. Adesso però, se il ministro risponde al telefono, abbia pazienza. Però va ben tutto. Guardi, tanto per parlare di fronte a un governo che parla al cellulare con non so chi, me ne frego di parlare con questo governo. Grazie, onorevole Dadone. Chiede la parola la ministra Boschi, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, mi scuso con l'onorevole per non aver seguito il suo intervento nella parte finale, ero però al telefono con Palazzo Chigi e sospendo un attimo la discussione che stiamo affrontando sulle riforme costituzionali per annunciare all'Aula una notizia che credo farà piacere a tutti noi, che Greta e Vanessa sono state liberate e torneranno presto a casa. Dadone, l'onorevole Dadone, Parenzo, l'onorevole Dadone. Devo dire la verità, sì, certo, una figuraccia pazzesca, per carità. Però che ne poteva sapere che quella era al telefono con i funzionari, che gli... No, che ma le diceva. Ma non ne azzeccano una, poveretti. Sì, hanno anche sfortuna, Hanno un po' di sfortuna in questo, sì, non ne azzeccano, scivolano su delle cose incomprensibili, poi una sfiga, la pesca, Dadone, poverino. Dadone. Cioè, adesso rimarrà nella storia, verrà ricordata, magari farà delle cose brillantissime in Parlamento, non ho dubbi, però verrà ricordata per questo, poverina. In on the streets again. Oh, caro Parenzo, abbiamo con noi il fondatore del Grande Oriente Democratico, massone a tutto tondo, cosiddetto massone de sinistra, anche se non è proprio corretto, Gioele Magaldi. Caro Magaldi, come sta? Bene, bene, buonasera a voi. Come stai? Come sta? Progressista. Progressista, di sinistra, sì. Visto che insomma a sinistra ci sono molti conservatori, così come a destra si mescolano conservatori e progressisti. Com'è che si chiama il libro? Come sta andando questo libro di Chiara Lettere? Ripetiamo. Sta andando molto bene, nel senso che dopo soltanto due edizioni, cioè due settimane, era già tre edizioni, adesso si avvia la quarta. Massoni, società, migliaia di copie. Massoni, società, responsabilità illimitata, la scoperta delle urloge. D'altra parte, Magaldi, io devo dire la verità, che se uno legge il suo libro, caro Parenzo, che succede alla fine? Che uno pensa che siamo circondati dai massoni, tutti massoni. Sì. Cioè uno c'è quasi da avere paura. Vede a un certo massoni punto di vista. Ovunque, anche nella propria domestica probabilmente. Senta Magaldi, ma veramente lei pensa che Napolitano, che si è appena dimesso dal Quirinale, sia massone? No, ma io non lo penso. Mi hanno segnalato che lei nel qualche tempo fa, qualche puntata fa, ha definito il mio libro come un romanzo. No, ho detto un romanzo, si può leggere come uno straordinario romanzo, ho aggiunto anche straordinario. Fa piacere che questa si può leggere come uno straordinario romanzo, ma ci sarà pure il diritto di critica al suo libro. No, si figuri, io era per capire come la pensava. Ma no, uno straordinario romanzo. Le aggiungo che mi hanno anche fatto un'offerta per una riduzione cinematografica addirittura del i massoni al cinema. Vabbè, ma questa loggia qui sarebbe scritto Napolitano, qual è? Non sarebbe, cioè io dal mio punto di vista è quello della, diciamo, della ricognizione precisa di documenti precisi e peraltro è noto anche a molti addetti ai lavori. Ma dove stanno sti documenti? E questi documenti, lei saprà se ha letto il libro, che sono, diciamo, depositati in copia presso diversi studi legali Cioè lei ha le prove oltre che negli archivi delle Urloges da cui sono stati presi visionati, cioè lei ha le prove della figlia, scusa, della pubblica opinione, qualora qualcuno delle persone citate nel libro avesse di che da che ridire e volesse, diciamo, dire che magari andare in tribunale, noi siamo disponibilissimi a convocare conferenza stampa dopo che l'abbia convocata la persona che si sentisse, diciamo, travisata e raccontata male nel libro, per sbugiardare costui. Cioè, ho le prove e se qualcuno mi vuole portare in tribunale tirerò fuori le prove, per esempio. No, ma non c'è bisogno di tribunale, vede, questa è l'impostazione sbagliata. Vabbè, tribunale, quello che è. Dare il massone a qualcuno e fargli un grande onore e privilegio. La massoneria ha inventato, se l'ha letto il libro avrà capito finalmente, la massoneria ha inventato la democrazia, le società libere e aperte, lo Stato di diritto, l'opinione pubblica. Vabbè, ma torniamo a Napolitano, però. Torniamo a Napolitano. Qual è la sua loggia? Napolitano è stato iniziato alla Triais nel 1978. Alla Triais, questa orologia è ben nota perché ne fanno parte diversi personaggi, anche italiani. Sì. E ovviamente chi fa parte di questa Triais? Italiani e stranieri di vocazione cosmopolita. Quindi, insomma, ci si stupisce di una cosa che è ben nota agli addetti del Bagley Office del potere, non è nota a chi, diciamo, si occupa di politica politicante a medio e bassi livelli. Scusi, ma questa loggia Triais, chi sarebbero, diciamo, gli affiliati insieme a Napolitano? Per esempio, mi faccia due nomi. Nero su bianco, sono lunghissimi elenchi in questo libro di cui consiglio una lettura sempre più estesa. Vabbè, magari, su. Fra un po' le pubblicheremo anche all'estero, questo libro. Ecco, ci sono lunghissimi elenchi, adesso non vorrà che li metta a snocciolare. No, due persone. Vabbè, guardi, tenga presente che questa orologia è stata fondata da tre pesi massimi dei circuiti massonici, chi? Che sono stati Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski. Vabbè, un attimo solo che ce la può. Torno dopo. Chi più ne ha più ne metta. Pubblicità, torno. Buonasera, dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilerata. Però dovrebbe mettersi d'accordo, perché mentre Salvini dice quello che ha detto sulla liberazione delle due ragazze, c'è un altro leghista che si chiama Giacomo Stucchi, che credo che sia il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti, leghista bergamasco, il quale sostiene Vanesse. È un leghista che controlla i servizi segreti, sembra che Topolino. Vabbè, perché non ho capito, perché sono Minus Abens, non possono controllare i servizi segreti. Minus Abens no, però insomma dai. Però che, perché un leghista, un deputato della Lega Nord non può fammi controllare fare la battuta su. No, ma dai. No, va bene, ma infatti hai fatto la battuta e io ti dico, scusa, a parte che non era una battuta. Un po' mi fa sorridere. No, ti fa sorridere che un leghista guidi la commissione di controllo sui servizi segreti. L'idea che un leghista faccia la commissione guidi la perché? Commissione. Perché è troppo complicato. Perché fa un po' ridere, diciamo. Ma perché? Perché è troppo complicato, una cosa troppo. No, in generale sembra una battuta, l'hai detto come fa ridere. È troppo grande per loro, perché cos'è? Non ho capito. Molti fa ridere questa roba. Ma nessuno fa ridere veramente. Comunque. Sai che un leghista controlli. Ma non controlla i servizi segreti, controlla la commissione. Presiede la commissione che si occupa del. Ma a me non è che mi faccia ridere questa cosa. Comunque. Fa un po' ridere. Allora, si occupino della polenta taragna, di far postolare. Ecco, appunto, vedi. Si occupino della polenta d'aragna, di far pascolare i maiali dove vengono edificate le moschee, si occupino di questo che è il loro terreno. E diciamo, non dei servizi segreti. Anziché accendere gli incendi e poi far finta di fare i pompieri, perché i servizi segreti fanno i pompieri, no? Questi accendono fuochi e poi appunto quei servizi segreti provano a fare i pompieri. Allora, secondo Parenzo, un leghista deve preparare la polenta e non può. Taragna e non può fare da parlamentare il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti. Ma magari altre può farlo, ma altre commissioni non fanno di più magari. Giacomo Stucchi, l'uomo in questione, sostiene: grazie per la nostra intelligence e anche per le loro famiglie che, seppur provate, hanno capito l'importanza della riservatezza. Allora, però si devono mettere d'accordo, io capisco, certo, la differenza di ruoli, però l'uomo dei servizi segreti della Lega, Stucchi, dice una cosa: grazie alle famiglie, grazie all'intelligence e tutta questa cosa qua. Salvini dice: queste due, che cos'è che ha detto? Sono amiche dei siriani e in più ha detto che è uno schifo se sono stati pagati 12 milioni di euro. No, forse un accordo, la battuta aveva un senso. Un accordo va trovato. A maggior ragione la battuta aveva un senso. Più tardi dirò perché sono a favore dell'elezione a Presidente della Repubblica del marchese Fulvio Abbate, che si è candidato. Il marchese Fulvio Abbate ha ricevuto più voti di Bersani nel sondaggio che sta facendo il Fatto Quotidiano, più voti, e vuole il decreto di abolizione del lavoro, il divorzio omosessuale, Raffaella Carrà dichiarata fuori legge, la legalizzazione delle droghe leggere, eccetera eccetera. Ma abbiamo con noi il mitologico Gioele Magaldi, super massone, fondatore del Grande Oriente Democratico, che ci ha appena confermato che Napolitano è iscritto a una loggia che si chiama Triai. Scusi, ma quando uno finisce di fare il Presidente della Repubblica, Magaldi, ma resta massone, cioè resta legato alla massoneria, resta legato, oppure viene dimenticato? Ma io mi diverto quando sono qui con voi, perché insomma è tutto posto sul piano del gioco delle figurine, le domande surreali. È un bel clima che riesce ad alleggerire la tensione della giornata. Sì. E i massoni sono tali a prescindere dalle cariche che occupano, anzi, ma la gente non lo sa. Si occupa di essere affiliato, perché siccome sa che a breve non occuperà più gli incarichi che ricopre, spera di avere un cuscinetto in quei salotti dell'aristocrazia massonica a cui non ha avuto mai accesso. E che tipo di loggia mira Renzi? L'ho spiegato nel circuito, circuito delle Urloges, dove è protagonista Mario Draghi, dove sono protagonisti altri personaggi che in questo momento danno le carte, certo, in Europa. Senta, Magaldi, parliamo un po' di personaggi che sono papabili per il Quirinale, no? Che ne so, Prodi, per esempio, è un massone pure lui? Allora, di Prodi io parlerò non soltanto della sua eventuale, della doppia eventuale caratura massonica, ma soprattutto dei rapporti con i circuiti massonici da est a ovest, cioè? Nel corso, diciamo, dei decenni precedenti, in momenti cruciali. Ma insomma, è massone o no? È iscritto a qualche loggia oppure allora, no? Allora, di Prodi, ripeto, si parlerà nel secondo volume di Massoni. Vabbè, ma ho capito, d'accordo, però parliamo... Dico una cosa, certamente Prodi sarebbe un'ottima garanzia di continuità rispetto al settennato di Napolitano, al nonnato di Napolitano. Cioè da quel punto di vista? Che Prodi, come Amato, da un lato è stato uno degli artefici di questo tipo di entrata in Europa, delle modalità con cui l'Italia sbagliata. Vabbè, questa è una valutazione politica però. Con cui l'Italia è entrata in Europa, dall'altra negli ultimi anni hanno fatto un po' di canto di coccodrillo, cioè a dire. No, però che... questa è la valutazione politica, Magaldi. Io voglio capire da lei se Prodi è anche lui affiliato a qualche loggia oppure no. Ma questo me lo dirà quando mi intervisterà sul secondo volume. Vabbè, ma ho capito, ma intanto le dico che Prodi sarebbe un candidato in continuità. Vabbè, ma quello lo sappiamo. Viceversa, è un candidato che non piace ovviamente a Matteo Renzi, ad altri, che preferirebbe candidati più... Magaldi, diciamo... il Papa può essere un massone? Beh, c'è stato un Papa massone, io lo racconto molto bene, Giovanni XXIII, Angelo. Esatto, Roncalli. Ma questo Papa qua può essere un massone secondo lei? No, non si hanno notizie. E che ne so? Guardi, me l'hanno chiesto, allora, molti giornalisti, i suoi colleghi, mi stanno inseguendo e corteggiando su questo tema da molto tempo, perché hanno sentito rumors vari in ambienti vaticani. Ma veramente potrebbe essere massone questo Papa? Ecco, anche, diciamo che vale il discorso fatto su Prodi. Vabbè, siccome ma la questione è complessa e qui non abbiamo con lei... Ma lei getta sospetti, le possibilità di parlare in modo articolato, lei continua a fare il gioco delle figurine. Ma lei getta sospetti pazzeschi. Se questo è massone o quello no, io mi rifiuto. Quando lei vorrà, insieme a Parenzo, magari in occasioni pubbliche, fare un dibattito su questi temi e spiegare... No, molto volentieri, ma io volevo chiedere... Ma la Prodi sono massoni, ne parleremo molto volentieri. Ma volevo chiedere una cosa molto più semplice, perché la domanda... domanda di prima di Cruciani era stranamente perfetta. Io gliela faccio in modo più brutale. Sì. Cioè, Cruciani dice: quando Napolitano ha abbandonato il Quirinale è diventato un senatore qualunque, sì, non conta più un cazzo, no? Quindi la domanda vera è, che quella che le faceva Cruciani, ma uno sfigato, ma può essere, c'è uno sfigato massone, cioè non vi serve a niente. E io gli rispondo, non per caso, il problema nasce prima. Napolitano ha finito il suo ciclo, non era più utile nella posizione in cui stava, e quindi ha dovuto, diciamo, nonostante le sue inclinazioni per il potere che sempre ha coltivato sin da giovane, ha dovuto lasciare una poltrona in cui era comodissimo, no? Specialmente sotto, durante, quando c'era Letta, poi con Renzi è stato un po' meno comodo, e no, ma uno che non conta niente, diciamo, un intralcio al percorso, alla traiettoria che sta portando l'Italia a deperire sempre di più. Senta, ma la massoneria si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, per le varie logge per l'elezione del Presidente della Repubblica? Sì, tenga presente che il prossimo inquilino del Quirinale sarà molto meno influente di Napolitano, quindi c'è un interesse relativo. La massoneria non è molto interessata. Non so che date in Italia, i stagionisti si agitano molto per questa cosa, sono tutti eccitati. Ma sarà molto meno importante. È una cosa che sarà molto relativa, perché come disse Mario Draghi, il pilota automatico è stato inserito, cioè qui si susseguono Presidenti del Consiglio e succederanno Presidenti della Repubblica, ma la traiettoria politico-economica dell'Italia, ahimè, è tragicamente... Cioè è più importante Draghi, insomma, è più importante Draghi. Ma non c'è dubbio, il quale non ci pensa per niente ad essere eletto al Quirinale, visto che controlla la Banca Centrale Europea. Certo, non c'è dubbio. E Draghi a che appartiene la cosa? Che ripetiamo Draghi un po'. Ha ben 5 Urloges. 5 Urloges, esatto. Una cosa pazzesca. Ma guardi, se lei ha letto il libro con il suo amico Parenzo. Ma è un super massone, allora. L'appartenenza multipla è una tradizione della massoneria. Ma si può definire, non soltanto di quella delle Urloges. Si può definire un super massone, allora. Ma direi proprio di sì. Super massone. Senta, un'ultima cosa. Ma come fa ad andare in 5 logge contemporaneamente? Beh, in 5 logge che ti do. Perché la settimana è fatta a più logge, c'è la possibilità di appartenere a più logge. Senta, ma via Skype anche tra logge e telefono. Dove? Non si capisce, Parenzo, non si capisce. Parla bene, parla. No, dico, magari parleranno via 5, uno che appartiene a 5 logge. Cosa fanno? Le videoconferenze via Skype? Perché allora, non c'è una in particolare a cui è molto affezionato, che sta a Francoforte, che si chiama The Ring, nella quale Mario Draghi si incontra di sera con James Weidman dopo aver finto di litigarci di giorno. Senta, ma parliamo invece di una cosa un po' scottante. Ma tra gli industriali, tra gli imprenditori italiani, bello, la radio di Confindustria, stupendo, Magaldi, quanti massoni ci sono? Ma intanto le posso dire che a quella Triais a cui appartiene Napolitano ha appartenuto Giovanni Agnelli, per esempio. Vabbè, questo si sa, non è che si sa. Sono degli guardi. No, ma gli imprenditori italiani hanno voglia, ce ne sono molti iscritti alla massoneria. Imprenditori italiani, visto che la periferia italiana è abbastanza in crisi, insomma, attualmente nelle Urloges non è che ce ne siano moltissimi, qualcuno c'è, ma anche importanti, importanti, che però hanno in quell'ambito un ruolo minore. C'è chi c'è, per esempio, Italia, chi c'è tra i grandi imprenditori italiani, tra i grandi capitani d'industria, tra gli industriali italiani? Allora, me ne indica qualcuno di questi grandi capitani attuali? Vabbè, ma quelli che sappiamo, quelli che... Della Valle, esatto. No, Della Valle no. Della Valle no, chi c'è? Non mi dirà mica che il signor Squinzi è scritto alla massoneria, no? No, ma sarebbe respinto se chiedesse l'affiliazione a Urloge, insomma. Perché? Addirittura respinto? Perché non è come ritenuto? Come ti permetti? Ma vergognatevi! Non è ritenuto un player importante, è un uomo rispettabilissimo. Come? Non è definito un player importante? Ma è il presidente di Confindustria! Determinante lei e la sua politica economica italiani, quindi è un uomo di transizione ritenuto anche in Confindustria. E quindi, insomma, voglio dire, non c'è una cosa pazzesca, da parte. Ma come si permette? Ma è una cosa in vergogna. Ma perché il vostro padrone di casa, c'è il vostro editore, c'è qual è il problema? Il nostro editore, sì, va bene. Ma non siete giornalisti, quarto potere libero. Ma infatti stiamo scherzando a poteri vari. Io ho il massimo rispetto a una persona come imprenditore, però le dico che non è ritenuto un player fondamentale nei giochi politico-economici italiani. Vabbè, e dunque per questo non ho, lei dice. E questo non è. Agnelli. Marchionne. Tratta con massoni di livello più basso. Marchionne nemmeno. Marchionne manca, bene, non c'è manco. Vabbè, ma non ma c'è Marchionne, nessuno. Mi scusi, abbia che ne so, come si chiama quello di Luxottica? Come si chiama, Parenzo? Del vecchio. Del vecchio, che fa? Pure lui è massone, no? Del vecchio, su del vecchio, mi riservo di rispondere in altra occasione. Vabbè, ma tutti si riservano in altra occasione, magari, dai. Ma lei me lo fa fare il gioco delle figurine, io lo faccio apposta. Lei se mi, quando lei mi fa domande articolate e di ragionamenti sul potere, io le rispondo. Il libro è sulle dinamiche del potere, non è il gioco delle figurine per farmi. Ma tutti sono, tutti sono interessati alle figurine, lasci perdere. Grazie, vedi, Magaldi. Da bambino però, da bambino ero molto interessato. Ma no, a presto, arrivederci. Che non credo sia Riccardo da Roma, eh. Buonasera Cruciani, non sono Riccardo da Roma, ma credo che il dottor Parenzo riesca a stimolare Riccardo da Roma. Vi seguo occasionalmente, sì. E male. Stasera Parenzo, come in altre occasioni, riesce, come dire, a far pensare che l'uomo, pur di lavorare, è disposto a far tutto. Ma ho la fortuna di poter dire quel che penso, figurati un po'. Ho la fortuna di poter dire quel che penso e di essere pagato per poter dire quel che penso, quindi. Ma magari uno qualche volta dovrebbe mantenere un punto, e le faccio un esempio molto semplice. Certo, allora, detto una cosa. No, direi di no, perché Cruciani mi ha fatto venire in mente qualche giorno fa lo scherzo che le Iene le hanno fatto, e per curiosità sono andato a vederlo. Lei stasera, pur di mantenere una posizione che è quella, secondo me, errata in questo caso del Papa, del famoso pugno eventualmente disponibile per chi fa una marachella, mi sono ricordato tra lo scherzo che le hanno fatto, e mi sembra, a differenza di quello che lei ha confermato, che lei reagisce quando qualcuno lo insulta, che durante il viaggio, che durante il viaggio che ha fatto, mi sembra che lei si sia acquattato da una parte, ha fatto la parte giustamente dell'agnello, perché aveva il presunto Riccardo da Roma, aveva persone sulla vettura, no, avevo che erano un intero stili, pullman, forse... ero uno contro 20, diciamo, e nonostante questo dicevo. Vabbè, questo, ma che vuol dire questo ascoltatore? Parenzo, mi perdoni Parenzo, siamo proprio semplici. Gli dicevo che l'avrei denunciato prima, come lei ha visto. Sì, ma diversamente da quello che ha fatto nella realtà, e che è comprensibile, il suo atteggiamento poi radio da frontman, da showman, che mi va bene, tantomeno da giornalista, è stato quello di sostenere che un pugno lei è disposto a darlo se viene attaccato per la sua fede. Dico per che posso capire, quindi... posso capire chi lo fa, certo, poi potrebbe capitare anche a me. Non mi è mai capitato che qualcuno mi insulti per strada a livelli che io reputo che superano la civiltà, Cruciani, no? In realtà ho chiamato per Parenzo, però mi piacerebbe buttare la pulce sulla questione delle cooperanti, perché sì. 12 milioni di euro, se sarà confermato, ma non sarà mai confermato, c'è anche un tweet addirittura di chi dell'organizzazione che le ha rapite. Sui 12 milioni di euro, il problema fondamentale è che con quei soldi probabilmente si compreranno armi. Beh, questo purtroppo eccetera no, eccetera, questa è la realtà dei fatti, la realtà è questa. Aggiungere poi è complicato contente... parlare di questo e dire no, non bisogna mai pagare, è evidente che è complicato dirlo, io fosse per me non pagherei mai. Allora perché non eliminiamo pure la legge che c'è in Italia che impedisce di pagare il riscatto ai rapitori? Eliminiamo pure quella legge e diciamo che va bene qualsiasi trattativa, pur di salvare una vita umana paghiamo. Allora togliamo la legge che c'è in Italia. Cosa. Io ho detto un'altra cosa, e questo signore forse, non ricordo, Riccardo da Roma, se forse sarà d'accordo con me. Dico che per me il metodo migliore è quella che in inglese chiamano extraordinary rendition, cioè vai con i tuoi aerei, le tue forze speciali, violi le leggi internazionali, violi lo Stato sovrano. Dipende se sai dove sono, se non lo sai come ce l'hai. Cioè le extraordinary rendition gli americani le fanno, e anche gli inglesi e gli israeliani. Ma oppure non pagano e gli ostaggi muoiono. Purtroppo è un dramma, non sono contento, è un dramma, ma accade. Non solo, se vai in Siria a fare il cooperante, come se uno va, no? Quando io dico se uno prende un barcone, se uno prende un barcone, no, affronta il rischio di. Se puoi gli salvi la vita, no? Mare no, ma come questo. D'accordo, se però. Se puoi gli salvi la vita. Sì, ma non ad ogni costo, non ad ogni costo, non con continuità come si fa in Italia. Da un punto di vista, ma che vuol dire? Mi pare cioè, se uno va in Siria a fare il cooperante, ti devi aspettare che qualcuno ti rapisca, ti puoi aspettare che qualcuno ti ammazzi, fa parte della vita. E dai, su, traffico, dai. E infatti forza. Queste lo fanno. Traffico, non c'è, abbiamo già fatto il traffico. Allora, mi sono scordato. Vai, vai, Riccardo, vai. No, no, dicevo una cosa molto semplice. Mi viene da pensare in un momento di crisi come questa che tutto sommato ci potrebbe essere anche un accordo sotto, cioè volendola pensar male, ed è facile pensarla male, nessun servizio dichiarerà mai che sono stati pagati neanche un euro. Certo. E quindi quei soldi prendono strade che sono stati pagati che nessuno controllerà mai, anche con la complicità, se vogliamo, non lo credo, però mi piace poter spingermi fino a quel punto a pensare che ci possa essere anche una complicità. Quindi io mi aspetto, sono stati pagati degli euro, allora così come l'ascoltatore precedentemente si lamentava di chi non viene salvato in montagna, ma in quei casi, se ricordo bene, vengono chiesti dei rimborsi per le spese dei soccorsi, anche in questo caso. Ma figuriamoci se chiediamo un euro a queste due ragazze. Ma non lo faremo mai, ecco. Guardi, poi il problema è molto semplice. È inutile essere ipocriti. Non vogliamo l'uccisione feroce delle persone. Nessuno di noi gode nel vedere due persone uccise o con la testa tagliata, sgozzate, eccetera, eccetera. Nessuno pretende, nessuno vuole questo. Per cui chi mi attribuisce cose del genere è semplicemente un imbecille o un cretino. Io dico semplicemente che però una cosa è questo legittimo sentimento di non volere una persona ammazzata. Un'altra cosa è lo Stato cosa deve fare. Cosa deve fare con tutti, non perché ci sono due donne cooperanti, perché in altri casi magari si poteva trattare, non si è trattato fino in fondo, ci sono casi di persone che sono state comunque uccise. Allora io dico una cosa, non bisogna lasciarsi impressionare dalle due ragazze, eccetera. Lo Stato che tipo di politica deve fare? L'Italia fa una sola politica, che è quella di pagare in ogni caso. Questo qua che cosa provoca? Il fatto che c'è un rischio enorme per gli italiani che sono nel mondo, innanzitutto, in zone difficili. Secondo, che questi soldi vanno nelle tasche di chi poi arma, si arma, spara, uccide, è matematico. Sergio da Bolzano. Pronto? Sì, Sergio, vai. Ciao, senti, io volevo parlare un attimo dell'Israele che aveva prima Parento, un altro che è intervenuto. Dimmi. Niente, lì c'è un... io li capisco quelli della Palestina, perché insomma... ma quelli della Palestina chi innanzitutto? Cioè quelli della Palestina? Aspetta un attimo, i palestinesi muoiono di fame, non hanno neanche l'acqua muoiono per bere. Muoiono di fame. Sì. Neanche l'acqua per bere, mentre gli israeliani, no, aspetta un attimo, gli hanno dato, io non sono un antisemita. Ma adesso non dobbiamo aprire di nuovo questo capitolo, qual è il punto? No. Il punto è che gli hanno regalato tutto quel territorio, se ne sono preso anche di più. Ma chi è? In teoria, gli americani e tutto quanto, e tutta la NATO, quando invece si doveva, visto che hanno subito dalla Germania, dovevano prendere dalla Germania il territorio e metterli là. Per me, vabbè, ma adesso qual è? Io. Ma a parte quello, come si può? Loro buttano bombe, cioè vanno a prendere un terrorista, ammazzano una marea di persone, vedi i bambini. Come fai? E dunque? E gli altri, i palestinesi, buttano petardi che neanche arrivano. Dunque tu capisci i terroristi che vanno ad attaccare il supermercato con gli ebrei dentro? Io dico semplicemente che quella è povera gente, quella è povera gente veramente. Mettiamo che sia vero, è povera gente, dunque? E dunque, i gli israeliani stanno facendo delle barbarie, come hanno detto gli altri. Dunque sono come i nazisti, come ha detto l'ascoltatore di prima. No, non sono come i nazisti. Loro hanno subito tantissimo, ma e allora? Tantissimo. E adesso si stanno vendicando in un modo sproporzionato. Non si è che perché loro hanno subito 60 anni fa, adesso possono fare qualsiasi cosa loro. Perché neanche loro stanno facendo la stessa cosa. Ciao quasi. Sergio, ciao. Ciao, senti, i palestinesi, ciao. Se no, io volevo parlare di un'altra cosa anche, delle due... Poco alcol a quest'ora, poco alcol, ciao. Il ministro Lorenzin vuole imporre alcuni cambiamenti nella legge sul fumo. Non si può fumare, non si potrà forse fumare, speriamo di no, nei parchi, in macchina con i figli, in altri luoghi pubblici, seppur all'aperto, non so dove. Forse anche nei film, cioè se un regista, caro Parenzo, fa un film, io credo che questa cosa qua non diventerà mai una legge, no? Non diventerà mai un provvedimento, ma in Italia tutto è possibile. Se il regista fa un film, se una persona di cinema vuole costruire una sceneggiatura, dovrebbe eliminare per una questione come di opportunità, di insegnamento ai giovani, dovrebbe eliminare l'immagine di qualcuno con una sigaretta in mano. Questo è assurdo. Una cosa io non capisco, no, come si possa solamente concepire una puttanata del genere. Io non riesco nemmeno a capirlo. Già i parchi è contestabile, però capisco i parchi, c'è qualcuno particolarmente sensibile che dice i parchi. Non ci sarà, la conosce, è un bravo ministro della salute. Veramente, è una bravissima. Vabbè, voglio fare anche gli auguri, perché sai che avrà due gemelli, troppo. Ecco, no? Forse è sensibile per questo. È con esatto, noi, però. Io credo di sì. Io voglio capire se Paolo Ruffini. Ciao Paolo. Beh, siamo al flop, eh? Siamo al flop. No, al più flop. Siamo al flop. Beh, è più lungo. Siamo al flop. Io questa è veramente una cosa allucinante. Cioè? Vabbè, non saluto nessuno, però. No, non salutare nessuno. Chi vuoi salutare? No. Riccardo da Roma, qualcuno del No, io voglio fare un grande film con tutti. Beh, un grande film. Riccardo da Roma, Cosmo da Milano, che è da pochi conoscenti. Paolo da Udine, tutti, il grande film della Zanzara. Beh, ma noi siamo pronti, siamo prontissimi, caro Paolo. Siamo prontissimi. Questo sarebbe il massimo, veramente. No, guarda, la riflessione sul fumo al cinema è semplicissima. Cioè, la riflessione, esageriamo, è solo riflessione. No, la riflessione è un parolone, ma cioè, la cosa da dire è semplice, cioè che non è possibile. È possibile che uno non possa scrivere o non possa pensare un personaggio e fuma, cioè tutto lì, semplicemente perché nel momento in cui ti immagini un personaggio, allora cosa vuol dire? Che questo può ammazzare milioni di persone nel film, chiaramente può bere sei bottiglie di whisky, ma non può fumare una sigaretta, se no è stronzo. Ma mi sembra un paradosso, esatto, clamoroso. Ma tu considera anche quanto sia significativa a volte la sigaretta, cioè pensa a Clint Eastwood per un pugno di dollari, col sigarino in bocca, oppure recentemente pensa alla grande bellezza, Tony Servillo, la prima immagine, no, della grande bellezza di Giacomo Gabardella, e si gira e c'ha la sigaretta stretta tra i denti e ti dice già tutto su un personaggio tremendo, modaiolo, volgare, no, ma poi voglio dire, Humphrey Bogart, cioè il ministro poi ha detto, si è un po' corretto il ministro e ha detto no, ma io non voglio proibire nulla nel cinema, figuriamoci, eccetera eccetera, però magari dovrebbero stare più attenti a certe, cioè alla fine si arriva sempre a questo, ma più attenti a cosa? Cioè la sigaretta, purtroppo io dico, perché comunque fa male, non c'è dubbio, però uno ha anche il diritto di suicidarsi, anche il diritto di stare male, anche il diritto di godere di una cosa che fa male, il diritto di disobbedire, esatto, cioè, il diritto di... Allora, io dico una cosa, fa parte della vita, il cinema serve anche a raccontare la vita, se uno racconta la vita, racconta anche uno che fuma, cioè dipinge nel caso in cui fa il pittore, o riprende con la telecamera uno che fuma, uno che scopa, uno che eccetera eccetera, no? Ma assolutamente sì, ma poi ti ripeto, cioè... Di qualcosa a Lorenzin, dai, di qualcosa a Lorenzin, così gliela mandiamo. Un piccolo messaggino a Lorenzin. Caro ministro, io faccio il regista, cioè poi, tema libero, dai, vai Paolo. Caro Ministro, in periodi come questo in cui si discute molto di libertà e di libertà creativa, io credo che si debba chiarire essenzialmente che il cinema ha bisogno di soldi e non di restrizioni, cioè il cinema ha bisogno di essere quello che il cinema è, cioè libero. Cioè la libertà nella fase creativa deve essere totale, non deve essere limitata da motivazioni che possono essere anche comunque valide, ma che se tu le applichi al cinema allora devi applicarle a una marea di cose che non hanno senso, cioè allora anche fumetti, allora anche Tex, Ministro Lorenzin, facciamo cosa? Ciao, a presto, ciao, ciao. Ti voglio ciao. Bene. Ciao. Radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Io comunque, ragazzi, resto convinto che un papa che si mette a livello di un bullo qualsiasi che dice mi toccano la mamma, tiro un pugno, cioè una roba, cioè, è la dimostrazione di quello che ho sempre detto dopo un mese, due mesi dalla sua elezione, cioè una sorta di clown, benissimo, una sorta di personaggio divertente, simpatico, no? Molto, sarà pure il papa, benissimo. Una cosa, non c'è la regalità, non c'è la, cioè non c'è l'autorità, il carisma di un papa. Ma sì, ma c'è quell'umanità proprio di quello che, cioè, se mi toccano la mano. Ma mica tanto, tant'è che mi pare che la gente si sorprenda nel commentarlo, perché effettivamente non è sorprendente, perché non è da papa. Cioè, noi non ci siamo mai trovati a commentare, per fortuna, i discorsi dell'Angelus, no? Come i discorsi di Napolitano. Come fai a commentare il discorso di fine anno di Napolitano e il discorso del Papa? È incommentabile. Però c'è un fatto che il Papa... Perché il buon senso, sì, genere, il buon senso, no? Ma questo a me non mi pare il buon senso, insomma, sinceramente. No, appunto, sto dicendo esattamente questo. È bello, perché invece lui questa volta non ha fatto appello al buon senso. Beh, però ha fatto appello alla pancia, alla pancia. E dovrebbe piacere... ti dovrebbe piacere, ma no, ma la pancia quella sorprende che tu lo attacchi, io lo difendo, invece lo faccio in modo naturale, subito, per la visione straordinaria, ma che straordinaria, la mente umana è vera, la mente umana è bella, bella, lasciamo perdere quella sulle religioni, dai, che è veramente un'altra roba ridicola. Ma il Papa ha una caratteristica fondamentale. La caratteristica del Papa è quella di chiamare le persone, anche le persone comuni, chiama un sacco di gente rispetto ad altri papi, no? C'è un legame stretto che tra c'è sempre stato tra i papi e la presidenza della Repubblica, però sicuramente tra Papa Francesco e Giovanni, sì, tra Papa Francesco e Giorgio Napolitano si è instaurato un rapporto anche particolare. Ebbene, tu sai, se vai a vedere nell'elenco telefonico, esistono effettivamente 7-8 Giorgio Napolitano, no? Il Papa che ha fatto? Il Papa ha cercato di chiamare, solo che gli hanno passato il numero sbagliato. Gli hanno passato il numero sbagliato di Napolitano. Senti che cosa è venuto fuori, perché ha beccato una famiglia col numero di telefono intestato a Giorgio Napolitano, non so dove, ma era un numero sbagliato. Senti che cosa è venuto fuori da questa telefonata. Pronto? Sì, buonasera signora, sono Francesco. Volevo parlare col signor Giorgio Napolitano. Su che cosa lei chiede? Sono Papa Francesco, signora Clio. Volevo salutare di persona suo marito dopo che ho appreso del congedo come capo dello Stato. Ascolti, forse ha sbagliato numero. Perdoni, mi ha dato l'arcivescovo questo numero. Mio marito si chiama Giorgio Napolitano, però non è Giorgio Napolitano il presidente. È un caso di omonimia. Sì, Papa, sì, aspetti un attimo che le passo mia cagnata, che proprio sono veramente... Signora, mi dispiace di questo equivoco. È un caso di omonimia, veramente. È un caso. Sì, e allora... io la saluto, l'abbraccio e non so, sono venuta a Roma anche a vedere la sua udienza una volta e mi sono commossa tanto. Arrivederci. Mia cognata, arrivederci e molto onorata. Grazie. Pronto? Sì, buonasera. Come sta? Che onore, veramente. Deve essere un segno di Dio credo che lei in questo abbia fatto questo errore, proprio per sentirla, mi creda. Sono emozionatissima e questo mi sembra un segno, mi creda. Devo grazie. Salutarla, che il Signore la benedica. Grazie anche a lei. Arrivederci. Sono, veramente, siamo tutti veramente emozionatissimi. Grazie, un errore che ci voleva nella mia vita. A volte grazie. Gli errori servono, Signore. Sì, servono sì, tanto. Sì. Arrivederci grazie. E buona cena. Buona anche cena. A lei, grazie. Riccardo dalla provincia di Salerno, vedi Parenzo che succede a fare chiamate, cioè a fare chiamate di continuo, no? Uno dice Giorgio Napolitano, prendi la cosa, chiamatemi Giorgio Napolitano. Però è stupendo perché quella che gli passa la cognata, erano emozionate, ma perché, capito? Va bene, sai, il Papa è il Papa, No, è bravo anche il Papa che ha detto l'errore, e dice alle volte l'errore è buono, no? E queste tutte contente. Sì, secondo me doveva confessarle, doveva, a quel punto doveva confessarle, si doveva confessarle perché al telefono. Per chi ha fede, io non ne ho molta, ma per chi ha fede credo che sia una cosa straordinaria il fatto che il Papa certo, telefoni. Certo. Cioè quasi piangevano, capito? Cioè queste persone qui adesso andranno, racconteranno a tutti, ma ha chiamato il Papa per un errore. Vabbè. Fa venire le lacrime quasi. Riccardo, provincia di Salerno. Riccardo? Sì, ci sono. Vai, forza. Allora, io ho lasciato la trasmissione prima che cominciassi il giornale delle 19, quindi probabilmente l'argomento mi potrebbe essere stato... No, ma non si preoccupi, Riccardo, Ok, va bene. Quello che piange. Dico, non lo dico in senso, non ho nessuna intenzione di offenderlo. Comunque, ho l'impressione che lei stasera si assume un atteggiamento un poco da stupido per quanto riguarda... Sì. Cioè, non è in grandissima compagnia in questo, ovviamente. Sì. Da subito per quanto riguarda il concetto del Charlie, queste cose qua. Sì, in che senso? Scusi, mi faccia capire. Non sono, sì, subito. Non mi sembra che sia giusto utilizzare come criterio di valutazione di quello che è successo il concetto della satira. Perché la satira è una cosa che presuppone, cioè è uno di quei comportamenti umani che fanno parte delle cose che vengono acquisite nelle società. Mm. In particolare nell'Occidente noi abbiamo fin dai tempi dei greci esiste la satira. I tempi dei greci. Ma, dunque? O no? Vabbè, ma allora che cosa vuoi dire? Scusami, Riccardo, senti, io sono le 8:40, certo, non mi fare venire il latte alle ginocchia, amico allora, mio. Voglio dai. Dire che non possiamo cercare di pretendere dai cannibali la satira. È chiaro, no? Quindi se noi vogliamo... tu stai dicendo, scusami Riccardo, sì. Hai dato dei cannibali, diciamo in questo caso agli islamici, no? Ma non voglio dire che sono cannibali. Ma hai detto così, non possiamo pretendere. Ma tu l'hai detto, scusa, l'ho detto io. Sì, tu vabbè, l'ho detto, non sì, puoi sì, pretendere, ma... non si può pretendere dai cannibali. Di prenderli in giro perché mangiano carne umana, faccio per dire, d'accordo? Perché mangiano carne umana, vabbè. Allora, se io pretendo di andare con la mia bandiera e di andare a prendere in giro i cannibali nella loro terra, no? È chiaro che mi devo aspettare giustamente da loro che non hanno, sono convinto, non sono abituati ad accettare la critica, no? E quindi io ho delle conseguenze. Delle conseguenze. Che noi in Francia, in Europa, mi metta a stampare un giornale con queste immagini che sono chiaramente una sfida, io posso farlo in casa mia, ma mo non siamo più nei tempi antichi in cui non ho capito niente, Riccardo, ciao. Noi, Flavia, ciao, come stai? Come state? Bene? Bene, cara, bene. Come va? Ma tu allora? Che stai facendo? Sei anche tu in trepidazione per l'elezione del Presidente della Repubblica? o no, no, no, no, qui a Castello parliamo di altre cose, qua c'è il tritone, ci sono altre cose, ci sono i cani, parliamo ci sono di... i cani, sì, ci sono i cani, io l'ho vista la casa di Flavio, ci sono troppi cani, troppi, tantissimi, sono stato a casa di Flavio, perché qual è il problema? Anche con Flavia. No, Flavia, dimmi, no, assolutamente no, è venuto qui, ma non abbiamo fatto in pace. Niente. Non abbiamo fatto niente. Adesso questo qua adesso... Questo è peggio allora. Beh, questo è molto grave. Perché è venuto a casa tua, non è stato niente, io non lo direi con questa serenità, perché stai mettendo in cattiva luce Cruciani. Ma cioè, no, non è adesso... una cosa che tu... Beh, no, non è bello da dire, è venuto qui, ma non abbiamo fatto niente. Era molto tempo fa, ma no. Comunque... Era un sacco di tempo fa, ma poi non si deve raccontare, non si deve raccontare sempre tutto, no? Proprio tutto nei minimi dettagli, cioè. Flavia, no, ragazza, comunque sì. Il nuovo presidente della Repubblica secondo me sarà Prodi. Le previsioni di Flavia Vento. Flavia Vento, due punti, il presidente sarà Prodi. Vabbè, perché... dai, se ci azzecchiamo poi insomma facciamo una scommessa e vediamo cosa vinco. Vediamo che vinci. Senti, ma io non ho capito una cosa, ma sulla è vero... base di che cosa lei è arrivata? Non lo so, così ha tirato a casaccio, dai, su. Ecco, sentimi, siamo... Flavia, ma tu sei veramente contro il porno, ho letto da qualche parte, o no? Sì. Sì. Ma come fai a essere contro il porno? Il porno è eccezionale, fenomenale. Cioè, è la dimostrazione che l'Occidente esiste, è la dimostrazione che siamo un paese libero, o no? Ma no, guarda, scusa, bisogna ritornare a dei valori, scusate. Bisogna tornare dico... a dei valori, no, amica mia. No, lo dico con l'anima pura, perché se uno ha l'anima sporca vede film porno, ma uno... quando vede film porno, secondo me l'anima diventa demoniaca. E cioè, questo no, cara. Però. Cioè, se uno vede film porno, cara, l'anima diventa demoniaca. Dai, su. Ma scusa, ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. Se non capite il mio pensiero, io. Ma qual è il pensiero sul porno? Scusa, spiegami qual è. Il porno è demoniaco, è fatto da Satana. Il porno non è una cosa sana. La Bibbia dice che l'amore è procreare, fare l'amore, ma fare un film porno è una cosa... No, fare, anche guardare, tu dici. Anche guardare, ma chi lo fa peggio? Cioè, io mi metto a andare a letto con uno per con una videocamera, cioè la mia anima, il mio sesso. Ma tu ti sei mai filmata mentre fai sesso? No, mai. Cioè non c'è mai qualcuno che ti ha chiesto, non c'è mai qualcuno che ti ha chiesto facciamo una foto mentre facciamo sesso, filmiamoci, no? No, guarda, io ma con la cosa più perversa che hai fatto, qual è la cosa più perversa? Guarda, io quando faccio sesso, basta che faccio sesso, quelli non ti preoccupare, non c'ho bisogno né di film porno né di film. Ma guarda che aiuta. Ma... No, cioè... no, io eccito senza queste cose, guarda, non ti preoccupare. Ecciti anche senza film porno, cioè comunque ecciti, cioè sei brava, no, vuoi dire, vabbè, sei non brava. Non è che eccito, io se vado a letto con una persona non ho bisogno di vedere film porno, punto. Ma guarda che è buono fare stare a letto e vedersi un film porno. Questo suo pensiero è legittimo. È buonissimo, è buonissima questa cosa qua. Andare... Meno questa interpretazione satanica del porno, questo un po' mi lascia perplesso, però perché... Beh, no, scusate, allora se voi non capite che è Satana il film porno, allora pure voi iniziamo a studiare insomma la Bibbia, andiamo a fare un po' di catechismo. No? Ma perché adesso ti sei fissata con sta Bibbia adesso? Spiegami, Flavia, adesso ma voglio perché capire. Perché la verità? Perché cioè la tu veramente Bibbia, leggi comunque... la Bibbia ogni tanto? No, io la leggo sempre, io leggi io sempre leggo anche la altre cose, ma dai, leggo su anche altre cose molto più forti. Ma adesso per esempio c'è una che leggi oltre la Bibbia, spiegami. Che leggi? Guarda, te lo dirò un'altra volta, perché questi sono segni della massoneria. Ma io non ho capito la cosa, però segni della massoneria, che ne so, te ci vorrebbe una lezione da Valentina Nappi, te lo dico io. Lì si fanno di roba buona. No. Dalla mitica Valentina Nappi, dai, dalla mitica Valentina Nappi. Ma no. Ma sì, vogliamo fare un confronto storico, Flavia Vento, Valentina Nappi, nei prossimi giorni. Il porno è Satana, ma sai un che quella fa le gangbang con 12 neri, con 15-20 neri, Flavia, cara Flavia, altro che... Cioè, Amore, io oramai il sesso per me non fa più parte della mia vita, non so come dirti. Ma perché da quanto tempo è che non scopi? Scusami se te lo dico in maniera molto, molto chiara, molto, molto. Giuseppe, ma ma che domande, da molto tempo. Da molto tempo. Da molto tempo. Da molto. Però guarda, forse trasmetti anche questa cosa, Flavia, eh? La trasmetti anche alle persone, cioè alle persone che ti stanno intorno. E alle persone trasmetti un certo nervosismo, una certa, cioè proprio con questa tua cosa, io non faccio l'amore se non sono, capito, se la persona. No, poi soprattutto, cioè, trasmette, parla di scimmie, che poi non so, o unicorni che vivono in un castello, impazzita. I cani. C'è Satana. Certo, vienimi a salvare tu dal castello fatato, che qui oramai tesoro, vieni a Milano. Non c'è nessun castello fatato, questo è il punto. Ma no, c'è, guarda che c'è un castello, io quando sono stato c'era veramente un castello, una specie di castello fatato dove stanno dentro i cani che uno deve stare attento dove si muove, una puzza tremenda. No, che poi ma non è vero, cani. Ma non diciamo cavolate, scusa, i miei cani stanno benissimo. Non è vero. Vabbè, ma uno può stare con quanti cani sono? 6-7, uno può vivere con 6-7 cani. Vai, che stiamo a parlare, ragazzi? Tu è una roba pazzesca, dai. È una roba da disturbati. Adesso non è il caso tuo, però dai. Ma su. Che disturbati? Scusa, meglio 7 cani che un marito che mi mette le corna. Scusa. Ma questo non è che per forza ci sia questa. Non è in alternativa. Esatto. Anzi, probabilmente se c'hai 7 cani, è giusto che tuo marito deve. Cioè, a un certo punto ti viene la fissa. Può capitare. Magari può sei pure capitare. Buddista. Magari sei anche buddista, Flavia. Sì, sono buddista, cabalista, massone. No, beh, dai. Sto studiando anche Rose Croce e Templari. E in più sono anche diventata. Sono andata da Scientologo. Ti manca solo che sei lesbica, guarda. No, lesbica mai. Mai. Lesbica perché ti stanno sulle palle le lesbiche? No, mai. Lesbica mai. Lesbia. Le donne non mi piacciono. Vabbè, ma sarei andata con una donna ogni tanto, sì. Mai. Nemmeno... Le donne le detesto. Nemmeno in tre? No. Nemmeno in tre. No, mai. Te lo consiglio però, eh. Te lo consiglio. No, amore, guarda, ti ringrazio, ma io. Guarda che la. Che le stelle. Il trio è buono, eh. Il trio è buono. No, eh. Amore, guarda, poi. Tesoro, guarda che è buonissima. Ti vedremo. No. Il trio te lo farò dimenticare in 2 secondi. No, ma guarda, ti posso assicurare che. Questo non credo, perché, insomma, no. Io voglio capire una cosa, ma Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi, come lo vivi tu? Come la vivi questa notizia pazzesca, questo evento che ci sarà, perché è un evento che ci sarà, o no? Io ho detto che non è un personaggio educativo per la società e non mi piace uno che fa il porno, punto. Poi se il mio non è educativo per la società, cioè Mediaset dovrebbe toglierlo dall'Isola dei Famosi perché non è educativo. No, uno non è famoso perché. Beh, come non è se famoso? Se uno è famoso. È uomini. Uno degli uomini più famosi in Italia, eh. Uno degli Vabbè, uomini più... Sarà famoso per chi vede il porno, ma per i bambini non è famoso. Ma no, per i bambini e no, ma per l'Italia è famoso. È uno degli italiani più famosi nel mondo. Tesoro, io un film con Rocco Siffredi non l'ho mai visto, quindi. Non hai mai visto un film con Rocco Siffredi? No, mai. Ma mai, ti, parte, mai, ti mai. Manca una parte fondamentale della cultura italiana. Ma sei impazzita. ma guarda che ma è una roba pazzesca. Cioè, se, chi non ha visto. Questo Parenzo me ne devi dare atto. Ma sai però. Che anch'io non l'ho mai visto uno con Rocco. Ma siete Siffredi. Veramente. Ma siete due ignoranti tutti e due. No, cioè, tu io è... non ho mai visto il porno, quindi. Vabbè, ma penso quello, tu sei un caso quello patologico. No. Parenzo, le ha, Parenzo quello... le ha visti, ma non ha visto un film con Rocco Siffredi. Allora, vi dico a tutti e due, Flavio Avento. Che... Allora, io voglio vedere un film porno insieme. Voglio vedere un film porno di Rocco Siffredi insieme a Flavio Avento. Questo lo dico, lo affermo. Così almeno togliamoci dalla. Sgombriamo subito. Tu hai visto un film intero di Siffredi? Ma uno, ma ne avrò visti una ventina, ne avrò visti. Con tutto quello che produce il cinema mi pare una scelta un po' strana. Ma assolutamente, però. Ma ne ho visto una ventina. Scusa, ma sì. Con quali donne sei stato tu? Perché per eccitarti, se devi vedere un film con Rocco Siffredi, sei messo male. Purtroppo sono arrivato a questo. Sei stato con donnette. E non mi basta nemmeno quello qualche volta. Non mi basta. Ma sei sempre stato con donnette. Su, se eri stato con una vera donna, i film di Rocco Siffredi non li vedevi. Guarda, te lo posso assicurare. Ti do un bacio, a presto, ciao. Ciao David, ci ciao. Sentiamo domani, 18:30, ciao. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta, se non capite il mio pensiero, io... Il porno è demoniaco, è fatto da Satana, il porno non è una cosa sana. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.